24 mattino di Alessandro Milan. Le 7:32 minuti, eccoci qua cari ascoltatori, una nuova puntata di 24 mattino. Vi ricordo subito il sondaggio di cui parleremo alle 8:30. Il sondaggio di oggi prende spunto dalla verve del ministro Brunetta, che ha tuonato letteralmente contro il mondo del cinema, degli artisti, quelli che vivono senza lavorare a spese dello Stato. Parliamo di questo e l'abbiamo tradotta così la domanda. Brunetta dice basta soldi pubblici per il cinema. Sei d'accordo? Potete già votare sul sito radio24.it o ilsole24ore.com. Ne parleremo alle 8:30, ma si inizia come al solito con i giornali. In primo piano. La crisi con il discorso di Barack Obama ieri, un anno dopo, e la politica. Questi due temi che si trovano nettamente in risalto sui quotidiani di oggi. Una rapida carrellata ai titoli. Governo le carte di Tremonti. Questa è l'apertura del Corriere della Sera, un'intervista al ministro dell'economia Tremonti che vedremo sicuramente, ma poi anche la crisi. Wall Street ignora la lezione, il monito di Obama. Dossier attacco a Fini, così titola Repubblica, la minaccia del giornale, il caso Ballarò, l'ira di Zavoli, quindi più il fronte politico e le polemiche, ma anche Obama a Wall Street, mai più eccessi. Questa era la Repubblica. La Stampa, basta eccessi a Wall Street. Il giornale, la sinistra sfotte i terremotati, la vicenda della cancellazione di Ballarò. Mentre aperture più economiche, prettamente economiche, via lo scudo da 4 miliardi, questo è il Sole 24 Ore, molto interessante, lo vedremo più tardi, ma anche la riforma di Wall Street entro l'anno con la foto di Barack Obama. E apertura economica anche per Libero, che ha iniziato un'inchiesta, pubblicazione di nomi, i nomi che sono nel mirino del fisco, secondo Libero, nomi esclusivi, quelli che hanno affidato i soldi all'avvocato Fabrizio Pessina, che è stato arrestato. Altri 100 furboni, questo è il titolo di Libero. Perché? Perché c'è la lista con nomi e cognomi. Lo vedremo più avanti. Dicevamo la crisi. Ieri un importante discorso di Barack Obama, ne parla Federico Rampini nell'editoriale di prima pagina di Repubblica, una frustata ai banchieri. Scrive Rampini: Barack Obama è venuto nel cuore di Wall Street per frustare i banchieri a un anno esatto dalla bancarotta della Lehman. C'è chi non ha imparato la lezione, c'è chi si ostina negli stessi comportamenti che ci portarono alla crisi. Chi lo fa mette in pericolo non solo se stesso, ma l'intera nazione. Scrive Rampini: nel cuore della finanza globale ad ascoltare Obama c'erano i vertici delle grandi banche, dal presidente di Goldman Sachs, Gary Cohn, a quello di Citigroup, Richard Parsons. Da quella platea un applauso iniziale di cortesia, poi tanto tanto silenzio, mentre Obama martellava di accuse i VIP stipati di fronte a lui. E pagina 2 e pagina 3, proprio l'intervento riassunto di Obama. Obama striglia Wall Street. Interessante tra l'altro vedere sul Corriere della Sera, e lo ha fatto Massimo Gaggi, che fine hanno fatto alcuni dei Lehman Brothers. I Lehman Brothers, chi pilota i jet russi e chi si ricicla in banca. Per esempio il caso di John Rea, fino a un anno fa era un top banker della Lehman Brothers, è stato chiamato dal sindaco di New York Bloomberg a guidare la Housing Authority della città di New York, in pratica un miliardario che è divenuto amministratore di case popolari, 178.000 appartamenti. Ovviamente non lo faccio per lo stipendio, ha commentato il giorno della nomina, parole infelici. La sua nuova retribuzione infatti è uguale a quella del ministro del tesoro Tim Geithner. E poi c'è la faccia di Dick Fuld, che è diventata probabilmente la faccia simbolo del crack di Lehman. Da allora Fuld evita i riflettori dei media, si tiene alla larga dagli eventi mondani. Molti altri membri della famiglia Lehman, scrive Gaggi, sono rimasti senza lavoro, hanno completamente voltato pagina, come Jeff Sheffer, che ora ha una stazione di servizio della Mobil in Florida. Oppure c'è chi addirittura, è il caso di Ken Litton, racconta al New York Times di aver già guadagnato talmente tanto che finora si è potuto permettere di passare tutto il tempo in barca a vela suonando il trombone jazz, volando sugli Alianti in New Mexico e in Russia, dove ha imparato a pilotare i caccia supersonici dell'ex Armata Rossa trasformati in costosissimi giocattoli. Alla faccia ovviamente di tutti quelli che ci hanno rimesso i soldi. Dicevamo la politica, Partirei proprio dall'intervista che Aldo Cazzullo fa al ministro dell'economia Tremonti, che parla di crisi ma non solo, la situazione politica. Il PDL discuta sulle idee di Fini, serve una tregua, il congresso del PD è decisivo. Questo è il riassunto dell'intervento di Tremonti, che parte da una metafora. Da un po' di mesi, dice, più che un palazzo, il palazzo del potere, sembra una caverna. Una caverna, chiede Cazzullo, la caverna di Platone. Nella caverna di Platone gli uomini non vedono la realtà, ma le ombre della realtà proiettate sulle pareti. Vedono immagini, profili, stereotipi, imitazioni della realtà. Il mondo esterno, la realtà è una cosa. L'immagine della realtà vista dal profondo della caverna è un'altra. C'è una drammatica asimmetria tra la realtà del paese e del governo e la rappresentazione che se ne fa. E poi Tremonti più avanti parla degli attacchi a Berlusconi. Una campagna orchestrata come un'ordalia paragiudiziaria, dice il ministro, tra l'altro senza che alla base vi sia alcun elemento giudiziario, domande e sentenze, l'appello al tribunale dell'opinione pubblica, il farsi dei giornali giudici. E ancora sulla questione delle sull'ipotesi delle elezioni anticipate che da più parti si evocano. Casini dice che una nuova maggioranza si trova in 10 minuti, chiede Cazzullo, e Tremonti: non credo, in ogni caso se fosse durerebbe a sua volta 10 minuti. E le elezioni anticipate? L'ombra delle elezioni anticipate esiste solo nella caverna? Certo, dice Tremonti, il governo Berlusconi è stato eletto sulla base di un programma elettorale. Infine, sulla crisi, in questa lunga intervista di una pagina, siamo in zona prudenza, la paura è finita ed è finita perché sono scesi in campo i governi. Dicevamo che la politica è anche molto avvelenata dopo che ieri Vittorio Feltri ha pubblicato sul giornale quello che è definito da alcuni, o meglio dell'entourage di Fini per esempio, una vera e propria minaccia stile mafioso, vale a dire attenzione a stare dalla parte dei giudici perché oggi tocca a me e domani a un altro, e si potrebbe rispolverare un dossier su uno presunto scandalo sexy del 2000 nei confronti di alcuni esponenti di Alleanza Nazionale. Ci sono molti commenti a riguardo. La Stampa, per esempio, Fini Feltri, la lite finisce in procura, pagina 4 e 5. L'ira di Gianfranco, lo sfido a pubblicare i suoi dossier. E questo è lo sfogo di un Feltri detto molto molto arrabbiato. Amedeo La Mattina lo scrive in prima pagina, retroscena politico: sfido Feltri a pubblicare il dossier. Gli estremi della querela ci sono già tutti, non ho nulla da temere, soprattutto scandali sessuali, siamo alla barbarie. Gianfranco Fini è veramente infuriato e secondo Amedeo La Mattina lo ha detto anche a Gianni Letta, che ha chiamato Fini per dire Silvio Berlusconi non sapeva niente di quell'articolo sul giornale. Già, lui non controlla Feltri, ha risposto Fini secondo questa retroscena, però ha ingaggiato un incontrollabile. E tra l'altro La Stampa intervista proprio Vittorio Feltri, il direttore del giornale, che dice: messaggi a Fine? Ma le pare che un bergamasco come me possa mai sognarsi di mandare messaggi mafiosi? Se devo mandare un messaggio a Fini, alzo il telefono e lo chiamo. Eppure l'avvocato Giulia Bongiorno ha dato fuoco alle polveri annunciando una querela nei suoi confronti, direttore. Ecco, semmai quello sì è un messaggio mafioso, perché le querele si fanno e non si annunciano. E poi ancora più avanti, in questa interessante intervista, Vittorio Feltri dice: ma quale avvertimento? Le cose sono semplici. Se si accetta che la magistratura possa andare avanti a fare inchieste, bisogna stare attenti. Oggi a me, domani a te e magari anche a lei, dice al giornalista che è Paolo Colonnello. Infine, alla domanda a cena ad Arcore lei non ci va mai, questa è un'illazione, dice Feltri. E poi dice: l'autorizzo a controllare le telefonate del mio cellulare, se ne trova una con Berlusconi da quando sono direttore mi dimetto domani. Interessante perché tra l'altro Feltri oggi, dopo aver appunto parlato di questo dossier nella fine del suo editoriale, interviene nel suo Il Giornale a pagina 7 con 3 righe sotto la notizia dell'Ansa: Giulia Bongiorno annuncia una possibile querela. 3 righe di Vittorio Feltri: l'importante non è fare una querela ma vincerla, e in questo caso sarà dura, molto dura. Beh, allusivo anche questo, come dire, le carte io in mano le ho. Per quel che riguarda la situazione politica, è interessante il punto di Stefano Folli, come sempre, sul Sole 24 Ore. L'ipotesi del voto anticipato è una minaccia inconsistente, scrive Folli. Il bizzarro spettro delle elezioni anticipate è tornato a affacciarsi sulle nevrosi della politica italiana. Se si tratta di una minaccia, occorre rilevare che non è credibile. Mai come oggi l'ipotesi di elezioni anticipate è priva di fondamento politico-istituzionale. Per alcuni motivi, tra questi, scrive Folli, lo scenario è irrealistico e che Berlusconi, seppure lo volesse, non avrebbe oggi la forza per ottenere lo scioglimento del Parlamento, essendo questa una prerogativa indiscutibile del Presidente della Repubblica. Napolitano non avrebbe alcuna ragione per assecondare l'eventuale piano. Insomma, tanto basta per accantonare l'ipotesi delle elezioni, inquadrandola come uno strumento retorico usato per colpire i critici del Premier, così scrive Stefano Folli. C'è l'altra vicenda, quella della TV. È diventato un caso politico la vicenda della scomparsa di o lo spostamento, meglio, di Ballarò per far spazio questa sera alla diretta di Porta a Porta per la consegna delle prime case al terremoto, dopo il terremoto in Abruzzo. E anche l'editoriale di prima pagina del Corriere della Sera, l'errore a reti unificate. Lo scrive Paolo Conti. Ieri sera, tra l'altro, si è aggiunto un ultimo tassello eloquente, scrive Conti. È scomparso anche dal palinsesto di Canale 5 di stasera l'esordio di Matrix. Era in programma una puntata sulla libertà di informazione, tra l'altro con Vittorio Feltri, tutto cancellato. L'avvio è rinviato alla prossima settimana. Vinci, Alessio Vinci, il conduttore, da buon soldato si è preso ogni responsabilità, scrive Paolo Conti. Ma anche qui il clima autorizza ogni retropensiero. Ha ragione Sergio Zavoli. Più avanti scrive Conti, presidente della commissione vigilanza Rai, la situazione è grave. E sul Riformista c'è quello che sarebbe il motivo per il quale si è arrivati a questa cancellazione. Silvio chiama Masi, che è il direttore generale della Rai, e Ballarò slitta. Come racconta una fonte molto informata, scrive Fabrizio D'Esposito sul Riformista, l'ordine di mandare in prima serata Porta a Porta abruzzese è partito direttamente dal Premier con una telefonata al direttore generale di Viale Mazzini, Mauro Masi. Tutto nascerebbe dal Cavaliere. Quando il Premier ha saputo che sarebbe andato in onda solo in seconda serata da Bruno Vespa rispetto alla prima di Floris su Rai 3, ha chiamato Masi e ha imposto il cambio di fascia, di qui lo slittamento di Ballarò. Di fronte a questa cosa perfino Vespa è rimasto imbarazzato, ma Berlusconi non ha voluto saperne niente. Tutto virgolettato, Fabrizio D'Esposito cita una fonte all'interno di Palazzo di Viale Mazzini, molto ben informata. Questa è la politica, il caso politico, le reazioni politiche. C'è anche un Piero Sansonetti, oggi direttore dell'Altro, che in prima pagina spiega ecco perché stasera andrò a Porta a Porta. In primo piano. In realtà, per chiudere la vicenda TV, spostamento di trasmissioni, c'è da segnalare anche Libero, che scrive professione anticav e pubblica l'elenco dei contratti di quelli che, secondo Libero, sono quelli che di professione appunto sono anti-Berlusconi. Santoro, 700.000 euro l'anno, Marco Travaglio, 1.700 euro a puntata per 35 puntate, Vauro, 1.000 euro a puntata, Sabina Guzzanti, 1.000 euro a puntata. Giovanni Floris 350.000 euro, Fabio Fazio 2 milioni di euro, insomma, e così via. Tutto questo offusca quello che poi è il fatto in sé, cioè la consegna delle prime case. Ci pensa Bertolaso, il capo della Protezione Civile, in un'intervista al Messaggero, a ricordare quello che è poi che si è fatto. Ci abbiamo messo l'anima per dare un tetto subito agli aquilani, dice Bertolaso. Soddisfatto, non riesco mai a esserlo per tutto. E poi anche una risposta piccata di Bertolaso. Posso dire che abbiamo lavorato molto, ma con franchezza la sismicità naturale non ha rallentato di un giorno i nostri lavori. La sismicità politica invece ci ha obbligato a fare molto di più. Per chiudere la questione politica e poi passare all'economia, mancava un'intervista, pagina 2 e 3 del Manifesto. A chi? Patrizia Daddario, ancora. Patrizia Daddario che risponde a Berlusconi: non ho commesso alcun reato. Patrizia Daddario, la escort, insomma, è diventata molto famosa. Intanto in questa intervista Ida Dominianni c'è anche tutta un'elucubrazione per cercare di spiegare la differenza tra un escort e una prostituta. E ancora Patrizia Daddario, che insomma racconta le serate a Palazzo Grazioli, parla anche di Veronica Lario, dice: mi pare una donna forte, una donna che ha sofferto anche lei. E conclude: mi sono fatta l'idea che dall'Italia è meglio andarsene. In Italia non vai avanti se hai doti, meriti, bravura. Devi solo essere al posto giusto, conoscere la persona giusta e non essere ribelle, così ottieni tutto. Vale solo per le donne, chiede la Domenigliani, soprattutto per le donne, ma anche per gli uomini. Ma gli uomini di potere in questo scambio cosa cercano e cosa ottengono? Quello che hanno sempre voluto, dice Patrizia Daddario. L'economia. Come detto, il Sole 24 Ore oggi dedica l'apertura allo scudo fiscale. C'è molto anche su tutti i giornali. Via oggi allo scudo fiscale, via lo scudo da 4 miliardi, questa è l'apertura. Da gennaio a luglio entrate in calo del 2,9%. E possibili sostanzialmente da oggi rimpatri e regolarizzazioni versando il 5% delle somme riemerse. C'è tutto un vademecum, tra l'altro Sole 24 Ore pubblica anche il modello proprio per la presentazione della dichiarazione riservata con tutte le istruzioni. 7 mesi per il rientro dei capitali, questa pagina 3. Da oggi al via lo scudo fiscale, l'atteso gettito è dai 3 ai 4,5 miliardi di euro. Come detto, tra l'altro, in una chiave diversa, si concentra sull'evasione fiscale, su scudo fiscale, anche Libero, l'avevo citato prima. Altri 100 furboni. Continua la pubblicazione dell'elenco degli italiani che hanno o avrebbero fornito i loro soldi all'avvocato Fabrizio Pessina, che è stato arrestato un po' di tempo fa con l'accusa di riciclaggio, e ci sono l'elenco, nome, cognomi, con l'identificazione certa, presunta o attendibile. Le fiamme gialle sarebbero al lavoro su questi nomi, secondo Libero. Voglio segnalare un paio di notizie interessanti dal mondo della scuola. Notizie interessanti perché, una è inquietante, la trovate sui vari giornali. Riforma da Puparo alla Biagi. Questo è il titolo. Sito minaccia docente ebreo. 4 righe velenose sul blog comedonchisciotte.org mentre si parla di scuola e prof precari. La Gelmini a questa riforma sta dando il nome e la faccia. In realtà l'artefice dietro le quinte, il puparo, è l'ebreo Giorgio Israel, come lo era Biagi, il riformatore della legge del lavoro, come lo è quel nano malefico di Brunetta. È un anonimo blogger che fa queste accuse molto molto dure, soprattutto l'accostamento, innanzitutto le accuse di antisemitismo più avanti, identificare Giorgio Israel come ebreo, e poi l'accostamento a Marco Biagi, ucciso dalle Brigate Rosse. Il professor Israel che dice: in questo paese c'è una dose di violenza politica che fa spavento, l'accostamento a Biagi è inquietante, visto come è andata a finire. Ovviamente il ministro Sacconi subito si è detto preoccupato, messaggi deliranti, ma certo è un caso davvero, davvero brutto, citato sui vari giornali. E sempre dal mondo della scuola voglio citare una lettera pubblicata da una bambina sulla Stampa. Io, bambina Down, rivoglio la mia maestra. Mi chiamo Miriam, sono una bambina di 8 anni, anzi quasi 9. Non avrei mai pensato di trovarmi un giorno così presto a dover difendere il mio diritto ad avere una maestra come tutti gli altri. E scrive Fabio Poletti: Miriam è una bambina bionda come tante, va in bicicletta anche se con le rotelle, quando può va in montagna a sciare con il suo papà, e scrive: avete capito bene, sono Down, faccio parte di quelli chiamati disabili o diversamente abili, io invece chiamerei tutti ugualmente diversi. Ha scritto una lunga mail scrive Miriam: quest'anno sarò in classe con tutte le mie compagne e le mie maestre. Io poi ne ho 2 un po' speciali che gli altri bambini non hanno. A causa della mia sindrome sono un po' più lenta nel fare le cose. Quest'anno però c'è un problema. A causa della riforma Gelmini la compresenza della mia classe è sparita. Io su 29 ore di scuola ne ho ben 8 senza la mia maestra. Non sto chiedendo un favore, voglio la mia maestra, non voglio altro. Ha preso carta e penna, ha scritto questa mail aiutata dal padre proprio al ministro della giustizia, Gelmini. Chissà se ci sarà una risposta. Voglio chiudere la rassegna stampa citando, ci sono tante citazioni sui film, sul cinema, il denaro buttato del cinema, pagina 8 di Libero. E anche pagina 9, 2 pagine, mantenuti e felici, 2 anni di film a spese dello Stato, l'elenco dei film, dei fondi ottenuti, degli incassi che molto spesso sono molto più bassi. e la polemica che riecheggia le parole del ministro Brunetta. Perché lo dico in chiusura? Perché questo sarà il sondaggio di oggi alle 8.30. Il ministro Brunetta ha tuonato letteralmente proprio nei giorni della Mostra del Cinema di Venezia contro gli sprechi appunto nel mondo del cinema, ma anche nel mondo della cultura, persone che dice hanno vissuto senza mai lavorare coi fondi pubblici, e di questo ci vogliamo interrogare. Su questo vi vogliamo interrogare, e il sondaggio è già su radio24.it, la sezione bianco o nero, sul sito ilsole24ore.com. E allora vi chiediamo proprio questo: il ministro Brunetta dice basta, soldi pubblici per il cinema. Che ne pensate? Siete d'accordo? Sì o no? Potete anche chiamare all'800 24 00 24 per intervenire dalle 8:30. Eccoci alle 8:18 minuti, ben ritrovati a 24 mattino, è il momento dell'economia. Soldi e dintorni. Ben ritrovata Deborah Rosciani. Caro il mio Alessandro, buongiorno. Eccoci. Sì. Allora, oggi parliamo... Ma tu lo usi il tecno deodorante di Cannavaro? Perché, se mi chiedi se uso il tecno deodorante devo subito pensare male. Perché... Guarda, ho sentito la nostra pubblicità poco fa e così mi ha incuriosito, devo esplorare, devo indagare anche. Non sulle tue abitudini, come dire, di pulizia, perché sono ineccepibili naturalmente, però su questo deodorante vorrei proprio... Visto che hai citato Cannavaro, un salvataggio in corner, si chiama così. Esatto, allora, in termini calcistici. Di che parliamo oggi? Parliamo di vaccinazione, ci sembra un tema assolutamente attuale. Perché? Perché... In questo momento dell'anno dobbiamo ovviamente tenere a bada la nostra salute, anche se questo è un anno in cui, come sapete bene, l'influenza stagionale è passata in secondo piano a causa del clamore suscitato negli ultimi mesi dall'influenza A, ma anche quest'anno ne è previsto regolarmente l'arrivo nei mesi invernali, e le previsioni attuali sono unanimi nell'aspettarsi una diffusione di entrambe le forme. Allora, questa mattina vorremmo fare a soldi e dintorni un piccolo vademecum per le famiglie che ci ascoltano e che magari hanno anche dei bambini e devono ricorrere alle vaccinazioni come ogni anno. Quanto incide questa spesa nel budget familiare? Quali sono le vaccinazioni che vengono sostenute dal servizio sanitario e quali invece dobbiamo pagare di tasca nostra? Oggi abbiamo invitato la dottoressa Anna Rosa Racca, presidente di Federpharma, che saluto. Buongiorno e grazie di essere con noi, dottoressa. Buongiorno, grazie a voi. Le facciamo fare un po', le facciamo vestire un po' le vesti, oltre che di rappresentante della sua associazione, anche di medico di famiglia, un po' di mamma, per qualche raccomandazione di buonsenso. Ricordo che la Federazione Nazionale, la Federpharma, rappresenta le oltre 16.000 farmacie private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale ed è un'organizzazione molto attiva in questo momento sul fronte anche della comunicazione relativamente all'influenza A. Dottoressa Racca, tra l'altro, magari spieghiamo un po' quali sono, come dire, le richieste di informazioni più ricorrenti che vi vengono fatte in questo momento e quali sono le risposte in grado di dare le farmacie. Quest'anno, quest'estate, abbiamo parlato tanto di influenza, è un allarme mondiale, c'è la preoccupazione di tutti gli stati di garantire la protezione, la sicurezza davanti a un virus così devastante. E sicuramente lo Stato italiano sta ben lavorando per aiutare tutti i cittadini a proteggersi. Quindi quest'anno le vaccinazioni saranno due. Ci sarà la classica vaccinazione antinfluenzale, che è la vaccinazione che si fa tutti gli anni, a iniziare dai primi di ottobre fino a ottobre o novembre, insomma massimo entro le prime decade di dicembre. E dovremo anche vaccinarci da questo secondo virus che si chiama influenza A, H1N1. Di questa seconda influenza, lei ha detto bene, se ne è parlato tutta l'estate, si è parlato di come proteggersi, c'era la preoccupazione molto delle persone che andavano all'estero, dove naturalmente l'epidemia si è sparsa in maniera più pesante. Quindi diciamo la farmacia è stata vicina a tutti, è stata vicina nel consigliare l'igiene, come proteggersi da questo virus. Anche se poi dobbiamo ricordare che quando dobbiamo passare poi al gesto concreto, quindi alla vaccinazione, il primo passo da fare è quello di andare dal medico di famiglia. Sempre, sempre, perché è un vaccino viene dispensato dalla farmacia dietro presentazione di ricetta medica. Benissimo, questo quindi è ovviamente, certo, il medico di famiglia ci sa dare tutte le indicazioni, visto che conosce bene, presumibilmente, anche il nostro nucleo familiare, tutte le indicazioni necessarie per il caso. Allora, per l'influenza A, lo hanno spiegato quindi, tutti, allora, diciamo, esatto, noi... no, volevo dire, il vaccino non è ancora pronto, per la forma tradizionale di influenza, invece se vogliamo possiamo già cominciare a vaccinarci, dottoressa? No, non c'è ancora, ci sarà fra qualche giorno, forse tra una quindicina di giorni, come ogni anno. Quindi diciamo, ripetendo, noi dovremo vaccinarci da due, dovremo fare il vaccino stagionale e dovremo alla metà di novembre vaccinarci per questa pandemia influenzale virus A. Perché il vaccino stagionale, quello che si fa ogni anno, non dà la protezione su questo secondo virus pandemico. Benissimo. Ecco, quindi vaccinarsi quest'anno contro questa influenza stagionale è un'importante misura di protezione, quindi è sicuramente raccomandata alle persone anziane, alle patologie, ai bambini particolarmente fragili, ma questo sarà sempre il medico che stabilirà se appunto una persona si deve vaccinare o no. Dottoressa Racca, come lei sa, questa trasmissione si chiama Soldi e Dintorni. Abbiamo già capito che per l'influenza la vaccinazione non dovrebbe costare nulla alla popolazione italiana. Per quello che riguarda invece il vaccino dall'influenza stagionale, mediamente quali sono i costi che devono essere sostenuti? So che un costo di una prestazione sanitaria si aggira al massimo intorno ai 10 euro, ma in quali casi il vaccino per l'influenza stagionale è passato dal Servizio Sanitario Nazionale? Ma in genere il vaccino è sicuramente mutuabile per gli anziani e per le categorie a rischio. Il costo del vaccino non lo conosco esattamente, perché come vi dico il vaccino sarà nelle farmacie nelle prossime settimane. Vi posso dirle quello è il costo degli anni precedenti, quindi sicuramente non varierà, che va dagli 8 euro fino ad arrivare ai 10 euro nel vaccino coadiuvato. Questo sarà circa il costo del singolo vaccino, della singola dose. Poi ogni anno uno deve fare una dose. Una dose, naturalmente. Tra l'altro qualche ascoltatore chiede come mai è necessario fare per l'influenza stagionale, lo ribadisco, ogni anno un vaccino diverso. Banalmente, dottoressa Racca, perché ogni anno il ceppo che praticamente trasmette l'influenza muta. È perché ogni anno cambia il ceppo, cambiano i ceppi da cui ci si deve difendere. Questo è l'OMS, quindi, che garantisce la difesa ogni anno da quel tipo di virus. Allora, ogni anno, tra l'altro, sempre per parlare di termini di comunicazione, le aziende sanitarie locali pubblicizzano anche ampiamente sulla stampa locale gli aspetti principali delle campagne anti-influenzali, no? Quindi anche in questo caso, senza magari andare in maniera ipocondriaca dal medico ogni 2 per 3, si può anche aspettare, se si è un soggetto in condizioni di salute normali. Che ne dice, dottoressa? Ah sì, io trovo che come sempre dobbiamo gestire bene la nostra salute, dobbiamo difenderci, cercare quindi di proteggere noi stessi, quindi di avere una attenta igiene, una pulizia delle mani, non tossire o starnutire davanti alla gente. Insomma, dobbiamo avere delle misure come sempre di protezione. Però ovviamente il vaccino è lì a disposizione, quindi è una bella protezione della nostra salute, anche perché voi sapete benissimo che poi si perdono giorni di lavoro, ma soprattutto si sta male, che è la cosa più importante, che è quella cosa da difendere. Benissimo. Allora, siamo già quasi in chiusura della nostra trasmissione. In 10 secondi, dottoressa Racca, magari ribadiamo il messaggio sul quale lei si è soffermata molto precisamente nella prima parte della nostra trasmissione. Vaccinazioni, quest'anno bisogna proteggersi su due fronti. Sì, ecco, allora ribadiamo. Quindi adesso tra 10 giorni circa sarà in disposizione alle farmacie il vaccino stagionale, quindi il classico vaccino che dobbiamo ogni anno fare sempre dietro prescrizione di ricetta medica, e poi più tardi, a metà di novembre, in base alle indicazioni che darà anche il governo e lo Stato, diciamo, dovremo vaccinarci dalla seconda pandemia, la famosa influenza A, di cui in questi mesi abbiamo tanto parlato. Esatto, con la speranza che naturalmente poi si spalmi anche in Italia in misura meno preoccupante rispetto alle aspettative. Dottoressa Racca, so che lei è in aeroporto, sta viaggiando stamattina, sì. Le auguro buon viaggio, allora, presto. Grazie, sono sicura che il governo, insieme a tutti gli operatori del Sistema Sanitario Nazionale e anche alle farmacie, saranno assolutamente pronte a proteggere tutti i cittadini. Certo, italiani. E a gestire questa situazione. Grazie molte, arrivederci. Arrivederci. Alessandro. Eccoci qui, Deborah, sì. Alle 12. Fatto la rassegna stampa, hai visto la prima pagina del Sole, cosa parte certo, oggi? Lo scudo fiscale. E di cosa parla Salvadanaio? Sembra un esamino. Dei tuoi capitali fiscale? Esportati illegalmente, ti do tutti ti il vademecum come per rientrare. In diretta hai detto alla gente di rapinare le banche. Certo, proprio così registrato, ho detto. E quindi quello rimarrà sempre. Quindi vai a mettere un po' di tecnodeodorante di Cannavaro, dai, vai. Sono le 8:33 minuti, le notizie in primo piano sono queste. Saranno consegnate oggi le prime case per gli sfollati di Omna, colpita dal terremoto in Abruzzo del 6 aprile scorso. All'evento Porta a Porta dedica uno speciale su Rai 1 e scoppia la polemica politica per la decisione della Rai di spostare Ballarò. Parte lo scudo fiscale. Fino al 15 aprile 2010 sarà possibile regolarizzare le attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente fuori dallo Stato italiano. L'operazione potrebbe portare nelle casse dello Stato tra i 3 e i 4,5 miliardi di euro. Per il cinema è morto l'attore Patrick Swayze, è diventato un sex symbol di Hollywood con Dirty Dancing e Ghost. Aveva 57 anni. Infine lo sport, stasera torna la Champions League, in campo le prime italiane, Marsiglia, Milan e Juventus, Bordeaux. Mentre per il tennis, l'argentino Del Potro ha vinto gli US Open a New York, battendo il numero uno al mondo, Roger Federer. E allora alle 8:34 minuti siamo pronti per il sondaggio di oggi. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, c'è stato un brunetta show sulla vicenda della cultura, dello spettacolo, dei finanziamenti pubblici al cinema e non solo. Non c'è molto da presentare, c'è molto da sentire, sentiamo. Cosiddetti artisti o registi che hanno delle tabelline molto, gli score, molto chiari nel loro curriculum, hanno ricevuto 30-40 milioni di euro nella loro carriera per fare i loro film, e quegli stessi film hanno incassato 3-4 mila euro. E questi stessi autori, registi, nobili, con la faccetta sempre sofferente, ti spiegano che questa Italia fa schifo, che questa Italia non gli piace, che ne vorrebbero un'altra, salvo che loro non hanno mai lavorato per un'Italia migliore. Non hanno mai lavorato! E bene fai, Sandro, a chiudere quel rubinetto del FUS. E fai bene a chiuderlo, e più veloce vai, e meglio è! I parassiti dei teatri lirici! I finti orchestrali, i finti cantanti, i finti scenografi. Bene, ecco, questo è un pezzo di questa Italia molto rappresentata, molto placida, molto della rendita, molto elegante, molto sussiegosa, molto politicamente corretta, molto colta, molto accreditata, molto internazionale, leggermente schifosa. Vabbè, gli applausi era una platea, la PDL, il Popolo della Libertà, Gubbio, insomma, avete sentito un crescendo. Andrea Purgatori, buongiorno. Il giornalista, autore televisivo, coordinatore del gruppo dei 100 autori. Lei è stato durissimo a dire anche, credo, si dimetta il ministro. Perché è stato molto duro in questa battaglia di Brunetta? Perché c'è una finzione di fondo in tutta questa vicenda che naturalmente né il ministro Brunetta né il ministro Bondi hanno il coraggio di svelare quando fanno questo genere di discorsi. Insomma, sono discorsi sgradevoli, li abbiamo sentiti, insomma, è come se io mi mettessi a ironizzare sull'altezza di Brunetta o la testa calva del ministro Bondi. La finzione di fondo è questa: noi chiediamo che il cinema venga sganciato dalla politica e quindi che non abbia questi fondi statali che ci vengono così rimproverati, perché vogliamo che il cinema italiano diventi un'industria. Nello stesso tempo il governo che, diciamo, ci accusa di essere dipendenti e col cappello in mano sempre chiedere soldi allo Stato non ci dà questa possibilità. E allora bisogna spiegare qual è il motivo. Il motivo è molto semplice. Ci sono degli attori di questo scenario che fanno enormi profitti, va bene, sullo sfruttamento delle opere cinematografiche e televisive. Per creare una struttura indipendente bisogna fare come si fa in Francia e in tutti gli altri paesi, ovvero andare a fare un prelievo di scopo, far pagare in percentuale tutti coloro i quali fanno enormi profitti sul cinema e la televisione, perché si crei un fondo indipendente, da non controllato dalla politica, che possa garantire questa industria. Questo è un tema già interessante, il fondo indipendente dalla politica. Andiamo a toccare interessi pesanti, allora lì si muove una lobby trasversale, quindi è più facile rispondere in questo modo. Allora, saluto anche il professor Carlo Lottieri, buongiorno professore. Buongiorno. Tra l'altro cofondatore dell'Istituto Bruno Leoni, insegna dottrina dello Stato e teoria generale del diritto a Siena. Qui a fianco a me c'è anche Marta Cagnola, reduce da Venezia. Ciao Marta, buongiorno. Buongiorno. Quanti parassiti hai incontrato a Venezia? No, quelli erano quelli dei teatri lirici. Però di placidi ce n'erano a Venezia, placidi anche molto poco placidi. Ecco, oggi Libero, tu hai le pagine davanti, mantenuti e felici, 2 anni di film a spese dello Stato. C'è l'elenco di tutti i fondi presi da alcuni film e, dagli incassi, e degli incassi relativi al botteghino, insomma in alcuni casi clamorosi. Eh sì, in alcuni casi clamorosi, perché vedo che i casi in cui i soldi sono rientrati, e non solo, sono stati poi i casi clamorosi dell'anno scorso di Caos Calmo e di Gomorra. Bisogna studiare un po' queste cifre e capire se con questo FUS drammaticamente tagliato si riuscirà ancora ad aiutare il cinema l'anno prossimo, oppure se, come molti sostengono, sia necessario andare oltre il FUS e chiedere i soldi al mercato, cioè far pagare chi i soldi incassa. Qui abbiamo una persona che il mercato lo conosce molto bene, professor Lottieri, perché Brunetta poi lì voleva arrivare, che questa industria, questo tipo di industria si regga sulle regole di mercato, incassi, o meglio fai con i tuoi soldi, magari ti diamo i prestiti agevolati, poi se incassi ce li ridai, se vai male fallisci, se vai bene, bene. È un discorso che lei condivide? Ma sa, io lo condivido nel senso che Brunetta sta facendo una guerra contro parassiti, tra virgolette, che guadagnano 1.200 euro, 1.500 euro in un ministero o in qualche altro ufficio pubblico. È chiaro che qua abbiamo a che fare con un settore diverso, un settore in cui l'assistenzialismo si colloca a ben altri livelli. Quindi noi abbiamo a che fare con, da un lato, un meccanismo ingiusto, perché si toglie a qualcuno per dare a qualcun altro. Un meccanismo inefficace, poiché, come è stato anche già detto, politicizza in larga misura il cinema italiano in maniera molto discrezionale, aiutando questo quell'autore, questo quel produttore. E poi una tassa regressiva, c'è un Robin Hood alla rovescia, cioè si tassano appunto gli operai, i dipendenti del catasto e così via, per finanziare chi opera nel cinema, che in genere, come dire, a redditi superiori. Quindi è chiaro che bisogna passare al mercato. D'altro canto, non dimentichiamoci che il FUS nasce nel 1985, quando uno farà la storia del cinema italiano scoprirà che forse era molto meglio prima del 1985 che non dopo. Tra l'altro devo dire che sul sito della radio circa il 70% per il momento dice sì, e bisogna togliere, siamo d'accordo con Brunetta, bisogna togliere i fondi. Vogliamo sentirla ancora Brunetta prima di tornare da Purgatori? Un altro il giorno dopo è tornato, credo, su RTL, faccia una rubrica, sentiamo. Chi ha detto che bisogna finanziare i film, magari finanziarli a fondo perduto, senza pensare a quanto quei film possono poi incassare? Ma trattiamo un film come una qualsiasi azienda. Forse ti presto dei soldi, magari te li presto anche a tasso agevolato, e poi me li restituisci. Se va bene va bene, se va male ti attacchi. Perché forse noi finanziamo il piano bar, non credo che finanziamo il piano bar. C'è chi ama il piano bar, c'è chi ama la disco dance, chi ama la discoteca, chi ama, ma devono essere finanziate anche queste. Io ho la proposta, che decida il mercato. Allora, beh, poi continuava. Purgatori, finanziamo forse il piano bar? Vabbè, la provocazione sappiamo, Brunetta parla così anche molto per esempi concreti che la gente capisce. È una provocazione forte oppure lo sperpero di denaro c'è stato effettivamente? Ah, ma guardi, lo sperpero sperpero di denaro c'è stato come c'è stato in tutti i settori, qui nessuno vuole nascondersi dietro un dito, però io insisto, è paradossale, perché è un po' come se domani mattina il ministro dell'industria si svegliasse e dicesse: beh, i modelli della Fiat non mi piacciono, facciamo chiudere la fabbrica. Insomma, bisogna tenere conto del fatto che in tutti i paesi del mondo lo Stato mette una quota, diciamo, di denaro per finanziare la cultura e quindi anche il cinema, ma non lo fa certamente, diciamo, con uno spirito mercantile, lo fa perché la cultura di ogni paese rappresenta l'identità di un paese. Adesso il fatto che noi per primi vogliamo che il FUS non sia il futuro del cinema italiano, come dicevo prima, ma pretendiamo di stare nel mercato, ma non ci vengono date né una legge né le regole, insomma, beh, questa è una cosa veramente paradossale. E contemporaneamente dobbiamo sentire anche il ministro Brunetta che ci dà dei parassiti. Marta. Sì, io volevo sapere, però c'è un problema: spesso questi film che vengono finanziati non incontrano i gusti del pubblico. Voi, dal punto di vista degli autori, come pensate si possa così giungere a una conclusione, visto che siamo poi in ambito di proposte per superare questo FUS? Ma potrei rispondere in molti modi. Il problema è che quando stiamo parlando, diciamo, di un film, parliamo di un prodotto che non ha una, diciamo, e non può essere costruito sui gusti del pubblico. Se fosse così, non avremmo mai avuto né Bertolucci né la Cavani né i Fratelli Taviani, che sono stati finanziati dal servizio pubblico radiotelevisivo negli anni 60 o 70 e che ci hanno dato dei capolavori come Strategia del Ragno e come tantissimi altri film. Il problema è un altro: il problema è che, per esempio, le strutture che sono, diciamo, che devono giudicare i progetti che hanno, che chiedono l'accesso al fondo di garanzia, sono strutture all'interno delle quali non ci sono le competenze. Un autore dovrebbe andare a sedere in una commissione che valuta i progetti, prendendo più o meno l'equivalente di circa 100 euro al mese. Capite bene che a questo punto è una questione, diciamo, di serietà, cioè o viene fatta funzionare per intero questa struttura e questa macchina, viene creato un centro per la cinematografia, si sgancia il cinema dalla politica, perché è ridicolo che ci sia un anno un ministro che decide adesso lo finanziamo il cinema e l'anno dopo no perché mi stanno antipatici. È una, diciamo, è un modo di affrontare questo problema che non sta da nessuna parte. Più industria, insomma, una cultura più industriale, ci vorrebbe. Noi vogliamo andare sul mercato, sul faremo mercato. Dei film brutti, andremo a casa, faremo dei film belli, incasseremo dei soldi. Ma guardi che sta dicendo quello che dice Brunetta, però, sostanzialmente, a questo punto. Vabbè, il traffico, andiamo al traffico e poi rientriamo. Radio24.it per votare, o il Sole 24ore.com per votare il sondaggio. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, quell'Italia molto placida si è resa protagonista di un altro sfogo a una domanda a Venezia, è diventato celebre anche questo, insomma, fai film, lei critica Berlusconi e fai film con Medusa. Sentite, se ricordate Placido. At least belongs to Berlusconi. Guarda, mi hanno distrutto il film perché era firmato Rai, poi perché ha firmato Medusa, ma che cazzo lo devo fare il film io? Ma che è queste cose qua? È stupido, è una domanda stupida. Io non so manco chi è il signor Berlusconi e non lo voto, voto a tutt'altra parte. Devo ringraziare il signor Balsetti, può essere una che ha una sua società. Ma può essere una la traduttrice che inseguiva, è su una domanda stupida. E vabbè, insomma, Luca Barbareschi, buongiorno. Buongiorno. Onorevole Popolo della Libertà, uomo che lo spettacolo lo conosce bene, le chiedo. Lei, Barbareschi, è una posizione interessante perché è andato in piazza a difendere i tagli del FUS quando si diceva Tremonti, i tagli, eccetera. Però ieri leggevo sul Messaggero, sta preparando un libro in cui denuncerà tutte le magagne di chi ci ha speculato sul FUS in questi anni. Insomma, come la vede questo Brunetta? Guarda, io sto lavorando, cercando di fare una cosa che abbia un senso. Vedo che queste polemiche, tra l'altro, sono molto dispiaciuto degli attacchi a Placido, e trovo che la sua lezione che sentivo adesso per radio sia più che giustificata, perché veramente è un paese di piccole guerre stupide, dove appunto, e in questo devo dire anche la stampa ha una responsabilità, nel senso che c'è sempre solo polemica e nessuno entra mai nello specifico della fatica, della creatività. Cioè Placido ha fatto un film, ci ha speso un anno della sua vita è ridicolo ridurre tutto a un battibecco sciocco, e mi spiace molto che Brunetta l'abbia attaccato, perché Placido fra i tanti che uno potrebbe attaccare ha sbagliato proprio l'obiettivo. Ha detto l'Italia placida, non si capiva bene a chi si riferisse. Si è riuscito a fare un calambur, è stato di cattivo gusto, ma detto questo ha sbagliato, non so, l'obiettivo, perché Michele è una star come attore, è stato un ottimo regista ed è un ottimo regista, è una persona serissima, un uomo di teatro. Io che faccio più o meno le stesse cose che fa Michele, e non a caso abbiamo una grande amicizia e stima reciproca, mi sembra proprio un obiettivo sbagliato. Detto questo, io preparerò questo libro bianco insieme peraltro all'avvocato Miciché, che è un avvocato peraltro che non vede le mie stesse idee politiche, ma con il quale condividiamo quella che deve essere una, non so come dire, una strategia, far sì che la politica esca dalla creatività e dalle produzioni di cinema e di teatro. Cioè, è l'unico paese, io ho prodotto più di 1200 ore negli Stati Uniti di televisione e ho coprodotto svariati film, io non conosco un politico negli Stati Uniti, cioè non so neanche chi siano, e ne come ci ha detto poco fa Purgatori, cioè basta la politica, però vedi, c'è anche un altro problema, questo non so se Purgatori è ancora in onda, perché sì, è qui, la sento. Allora, c'è anche un problema, se facciamo, io ho tentato quest'estate con fatica per la prima volta di portare tutti attorno a un tavolo, cioè le associazioni, perché le battaglie comunque vanno fatte coese con le associazioni, cioè l'APT, i produttori televisivi, teatrali, cinematografici, eravamo tutti a un tavolo con il sottosegretario Letta. Se noi facciamo questi, no, queste specie di tavoli in cui otteniamo poi un minimo, no, una piccola cosa, però coesi noi possiamo fare delle cose, perché noi rappresentiamo 2.000 milioni di euro di investimento all'anno, cioè il mondo dello spettacolo in generale, versiamo sì. 400 milioni di IVA allo Stato, per cui non si capisce perché su 5.000 dell'Alitalia licenziati ci sono le prime pagine dei giornali e su 200.000 persone dell'indotto dello spettacolo che rischiano di andare a casa non gliene fotte niente a nessuno. Ma le do io la risposta, perché non c'è coesione dal punto di vista. Ma perché dice lavoro. Purgatori? Perché Purgatori perché non dico, c'era. Noi facciamo una battaglia di questo genere. Il giorno dopo si va alla conferenza della mostra del cinema e si prende in giro il ministro, cioè si riduce tutto di nuovo a una burla, attaccando e facendo anche lì è l'equivalente di Brunetta, delle battute di cattivo gusto nei confronti dell'istituzione. Beh, ricordiamo che alla presentazione del programma della Mostra del Cinema di Venezia Sergio Castellitto prese il programma, lo stracciò, ne fece coriandolo, li buttò sulla platea dicendo era un gesto futurista, questo credo si riferisse Barbareschi. No, anche alle letture un po' sceneggiate sulla vita privata dei personaggi pubblici, insomma l'ho trovato di cattivo gusto. Allora io dico questo, o noi ci prendiamo un pochino più sul serio in questo senso, tanto fare i buffoni lo facciamo già sul palcoscenico o quando facciamo gli attori, ma nel momento di battaglia e ci confrontiamo molto seriamente, entrando nel merito delle cose, per cui rispettando l'istituzione, cioè per me che ci sia di là destra o sinistra, se io facessi l'attore sì. Basta o il produttore basta, non importa, però rispetto che c'è un ruolo istituzionale, dopodiché faccio un attacco come associazione. Quando in America fanno gli scioperi non ci sono degli insulti tout court, cioè si blocca l'industria per 6 mesi e ottengono le cose. Noi in questo momento abbiamo delle tragedie in corso di cui nessuno parla, e glielo dico perché mi stupisce che in questo momento l'associazione produttori, l'associazione televisivi, cinematografici non parli per esempio dei ritardi mostruosi che sta avendo la RAI nel firmare i contratti, cioè la RAI si troverà nel non avere prodotto fra 6 mesi, no? Allora, queste battaglie molto grosse vanno fatte non dal punto di vista politico, ma vanno fatte nel merito di quello che noi rappresentiamo. Sì, lei dice più coesione anche dell'ambiente. Io ho 30 secondi, professor Lottieri, devo chiudere. Secondo lei, quella di Brunetta è un po', insomma, una crociata, la mettiamo tra mille virgolette, ma sappiamo che Brunetta parla così, oppure, secondo lei, c'è un settore da rifondare dal punto di vista più regole di mercato, quello dello spettacolo in generale? È una battaglia importante, non dimentichiamo però una cosa, che il FUS è una piccola realtà perfino per il mondo del cinema. C'è una realtà molto più grossa che va evocata adesso da Barbareschi, cioè la RAI, che condiziona molto di più in termini politici e distorce molto di più il mercato se non si privatizza la RAI, purtroppo qui la destra non lo vuole per ragioni di interesse, la sinistra non lo vuole per ragioni ideologiche, se non si privatizza però la RAI, dai problemi di cui abbiamo parlato oggi non riusciremo rapidamente. Mm. Sì, poi si dice fuori la politica dallo spettacolo, fuori la politica dalla RAI, cosa dovremmo dire? Vabbè, ma non apriamo perché questa parentesi, Marta ride, non ho capito perché, ci dobbiamo fermare, ringraziando tutti l'onorevole Barbareschi, Andrea Purgatori, Carlo Lottieri, Marta, grazie per essere stato con noi. Beh, stamattina il bianco e il nero erano tutte e due un po' grigini, eh? Sì, no, oggi siamo sul 70% per ora a favore di Brunetta e dunque andate a votare radio24.it o ilsole24ore.com. Noi, ringraziando Alessandro Marcotulli e Laura Marchesi in redazione e Peter Bescapè in regia, ci riaggiorniamo a domattina alle 7.30.